Eccoci qua ancora in viaggio in una camera d'albergo, ma siamo ancora a Cardiff. Credevamo che ce ne saremmo andati alla svelta da questa città in cui siamo arrivati alla fine per uno sbaglio, e invece siamo sempre qua perché alla fine abbiamo scoperto delle cose interessantissime in questa città. Ad esempio, in questa città c'è una specie di paese dei balocchi che stamani abbiamo visitato, perché sì, il mio socio, oltre ad essere un socio, il mio supportatore e sopportatore, gliene sto combinando di tutti i colori durante questa vacanza, è un grandissimo appassionato di falegnameria e quant'altro, e stamani siamo andati a visitare una negozio, rivendita, non saprei bene dire cosa fosse stato, che riguardava appunto la falegnameria. Quindi per tutti gli appassionati del genere, fate un salto a Cardiff, anche se non è proprio dietro l'angolo, perché c'è da levarsi la voglia. Io in effetti, da assoluto ignorante, grazie alle spiegazioni che il socio, che Lorenzo, mi ha dato durante la visita, ne sono rimasto assolutamente colpito. C'è una catena di negozi, si chiama Axminster in Inghilterra, che ha tante sedi diffuse un po' in tutta l'Inghilterra, fra cui una sede qui nella zona industriale, insomma fuori città, qui a Cardiff, facilmente raggiungibile con un normalissimo autobus. E io in questo negozio mi ci trovo bene, perché ci faccio degli acquisti online, ci sono dei prezzi veramente buoni, e merita fare acquisti, perché fatto tutto il conto del prezzo e delle spese di spedizione, merita fare acquisti di materiali di consumo per il mio divertimento, che appunto le lavorazioni di legno. In questo negozio era tanto tempo ci sarei voluto venire, ho colto l'occasione per farmi questo giretto, e è stato appunto un raggiungere una mecca per me venire qui, perché insomma, uno ci compra tanto online da lontano e poi finalmente ci va di persona. E bene, si è trovato questo ambiente, l'ho trovato come me l'aspettavo, anche perché insomma uno fa la ricerca, c'è tante delle foto, l'attesa è delle giacche sfatate, uno aveva già preparato. E ho fatto dei ragionamenti, ho visto un po' tutto, un sacco di arnesini bellini che ho, alcuni che mi mancherebbero, volevo fare un acquisto, poi valutando le spese di spedizione ho preferito farne un altro, quindi... E comunque sia, insomma, ero partito per fare un po' di shopping, l'ho fatto davvero e ne esco contento, Shopping che tra l'altro è stato preceduto da un incontro, un siparietto molto carino in pullman, quando a un certo punto è montata quella che io ho ribattezzato la signora Fletcher, e per fortuna non lo era, visto che non ci è scappato il morto, questa vecchietta molto simpatica che si è prodigata. Poi si sono aggiunti anche altri personaggi bizzarri che erano sull'autobus, mi ricordo un signore anziano con una giannetta stranissima e un giovanissimo padre di famiglia con bambino al seguito nel passeggino, che si sono veramente prodigati per cercare di insegnarci quale era la fermata esatta per scendere dall'autobus per arrivare in questo posto, tant'è che addirittura poi l'autista dell'autobus ci ha proprio chiamato per dirci: guardate ragazzi, è la prossima. E quindi sono stati effettivamente molto gentili. Ma per quanto riguarda lo shopping, che ora ovviamente non è che siamo andati per vetrine a fare shopping, però abbiamo girellato, abbiamo visitato il castello, tra l'altro molto bello, un giardino bellissimo, poi all'interno non siamo entrati, non c'era tempo e c'era insomma un po' di situazioni strane, una bruschetta nell'occhio, come avrebbe detto Elio di Elio e le storie tese. Però un'altra situazione che io ho fatto caso è appunto i negozi di souvenir. I negozi di souvenir che sono uguali in tutti i porti che mi è capitato di visitare, e vi viene di dire sono uguali in tutto il mondo. In effetti andare in un negozio di souvenir a Cardiff piuttosto che magari a New York è la stessa cosa, gli stessi tipi di oggetti. In effetti questa cosa con Lorenzo l'abbiamo notata. Qui a Cardiff ci sono un paio di negozi grossi di souvenir, come ci possono essere tante altre grosse città in giro per l'Europa, e niente, ormai i ricordi di viaggio sono diventati un'industria, un'industria che produce tanta paccottiglia. Di scelta ce n'è, dalle magliette ai souvenir di varia natura per accontentare per sé le persone, oppure anche per dire i parenti ai quali porto un regalino. Però che tu sia a Cardiff, che tu sia a Roma, che tu sia a Russia, che tu sia a Palermo o a Madrid, trovi la solita linea di cinesate, dalla tazza alla maglietta, alla felpa, alla bandierina, il posacenere, il classico magnetino per il frigorifero. Tutto uguale, tutto uguale. È veramente raro trovare cose realmente locali, il souvenir vero. Cosa c'è in Galles? L'artigianato ormai è sparito anche qua. Sì, perché ora non sapevo che Galles fosse famoso per la lana. Io sapevo l'Irlanda era famosa per la lana. Quando ci sono stato c'era un sacco di negozi di roba di lana, dalle coperte ai calzini alle cose, a cappelli. E qui c'è alcuni negozi di souvenir che vendono anche articoli di lana, ma io sapevo che Galles era famoso per la lana. Io sapevo che il principe di Galles. Poi boh. Ora, in questo momento non mi ricordo, ma oggi abbiamo anche notato, io ti ho fatto notare, ho visto una serie di ragazzette, però molto poche, con quei capelli verdi, come va di moda ora in Italia, o quantomeno dalle nostre parti, che va di moda ora. E secondo me invece questa è una moda che qua sta sparendo, e da noi ci è arrivata un po' dopo. Però tu avevi notato un'altra cosa che tu hai ribattezzato come una nuova moda, ma io adesso non me la ricordo. Nuova moda, no, cioè dico, mi viene a dire che l'oltremanica, da quello che ho sempre imparato e sempre saputo, è sempre stato fonte di ispirazione, di grandi idee, di innovazione, porti al modo della moda. Ora, una volta era Londra, ma si usa un po' tutto l'oltremanica, e qua su si vede le persone vanno in giro con delle pettinature, con degli abbigliamenti un po' diversi. Non è che hanno tre gambe e 20 occhi, però leggermente diversi rispetto a che tu vedi in Italia. E come si sa, di solito quassù nascono e arrivano da noi un anno dopo, o più o meno un po' di tempo dopo. Probabilmente chi si è visto ora di moda qui si rivedrà fra un po' di tempo. Le mode estive di ora le si vedranno il prossimo anno in Italia, forse così. E per ultimo, da buoni italiani, anche oggi abbiamo avuto modo di visitare alcuni pub, quindi abbiamo continuato con la degustazione dei prodotti locali, e personalmente per pranzo oggi ci siamo levati una bella soddisfazione con un piatto tipico gallese, ovvero una specie di spezzatino coperto da una nuvola di patate con i piselli. Quello ce l'hanno venduto come un piatto tipico gallese. Ora io non ho idea se questa cosa sia vera o no, ma sicuramente era molto buono. Quindi io vi ringrazio ancora, amici, per essere stati all'ascolto e in viaggio un po' con noi alla ricerca della mitica isola di Wight, perché non scordiamoci il focus, noi cerchiamo di andare a scoprire dove è questa isola di Wight. Lo faremo, cercheremo di farlo, chissà. Adesso siamo pronti per uscire ad affrontare una nuova nottata in capitale gallese. Chi lo sa se domani saremo ancora qua o se le cose e gli eventi ci porteranno altrove. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a presto sulle frequenze di Radio Big World. Grazie! Till end is the land.